senti? Chi è? Poi, ma Cocco, dove sei? Oggi un mortorio. Vabbè, dove sei? A casa. Sto aspettando per la cena che finisca un film. Ma? Cava cava. Io qua mi sono arrivato da poi sotto la stazione. Non ho un controllo di radio, grazie. Radio 5. Distorta, eh. Ola, ola, ola, pressa, compressa, Allora, forse appena appena satura. Può essere. Mi fate stare usando. E io so, faccio una cosa. Faccio un lavoretto e poi... Meglia. Quanti volte sono? Appena appena io, esatto, non molto. 10 va. Ma prova in FM se puoi. Dove? In FM. E poi? Cosa cambia? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Abbiamo fatto anche una come ti si può. Sì, è appena chiusa. Devo aspettare che cosa ci vuole, pesante, non devo l'arte di un tecnico, la persona ci intende da appena appena, appena appena dico. No, non è che c'è il problema di appena, c'è il male appena. Capisco perché è un problema anche lì. Cioè, non può fare tutta una casa, insomma, si può fare, ma vuol dire che la sala è un porto piano. Guardate che la terrazza non è più una cosa tanto. Però quello che ho oggi più non consiste la funzione da... Non è stato più, la città di oggi. Vabbè, ho capito. Thank you. praticamente la friggitrice elettrica. No, io non lo faccio, troppo pericoloso, lui ha troppi muri. Quindi forse piccola non è di nata ancora. Ma in viaggio delle Battisti è scoppiata l'impianto del gas e ha fatto un bel ritmo. L'impianto delle Battisti è quella dove c'è l'orologio di Arruglio, il banco di Sardegna, ce l'è presente. Quella via, cosa ti posso dire, dove c'è la Lupi una volta. Non c'è più nulla per qualcuno, c'è tanto la sbuca. Ecco, la cosa c'è che sbuca poi in Piazza Porta, dove c'è il negozio di animali, telecomando per il digitale terrestre con tutto l'impianto. andiamo a far calma come abbiamo fatto noi, e si vede benissimo, benissimo. Abbiamo partito prima, noi ci hanno usato tutto come carri, dai. Sono le case peruviane, ci hanno trattato. Avvicinare le labbra. ci stava 24 ore su 24 l'apparato, una figura. Sì, perché mangiava troppo, si chiamava, poi, ma con conto, ti amo. Ma io poi va, cioè che tu ti comportai così, fai corretti perché se no la revoci, fai corretti perché se no lo sai cosa ti faccio io, va, hai mangiato un buon vino di marmo. Che lavoro faceva, ho detto che lavava la sabbia. No, non lo sapevo. la circolazione industriale. Ma chi sei? Sei della rotta? Sei Mondoli spesso oppure poco? Modulazione forte, ottimo. Buonanotte comunque. Eh beh Gianni, te lo posso fare il gioco della calzetta? La faccio io. Questo mi ricorda quando a Paoletto gli facevo sentire il suono del microfono sui capelli, no? Dicendo che erano peli e lui, sì, Marcolino. Mamma mia, non avrei voluto vedere la scena. Oh Gianni, mi sa che Paoletto sopra il letto sul soffitto aveva le staratiche. Al giorno. Dove? Amico sconosciuto, abbiamo capito. Addio. Sto facendo la legge di buco. Mamma, della verità, sto ammazzando un po' di paranoia. Mamma mia. Cavolo, la voce mi sembrava nemmeno la tua sottovoce. E non ho capito il modo di fare. No, con te Gianni, ma non aveva parlato fino a te. E sembrava che. Ho detto, non sembrava nemmeno la tua voce sottovoce. Davvero? Io francamente no, non capivo chi fosse, sembrava una voce più giovane anche. Prima ho pensato a Luca, poi ho capito che era Luca. Ecco lui subito. Poi poteva essere anche un altro, non è che fosse sicuro al 100%. Ah, vedi che allora ti sei corretto. Poteva essere chiunque. Allora Gianni, allora, che si dice? Come ti hai visto stasera il ventaccio che si è alzato per una? Come sembrava vero che piovesse, neanche una goccia d'acqua, tutta uso l'ha fatta. La tromba d'aria sembrava. Sì, ma l'ha fatta uso dopo. Ha smesso di colpo. E poi sentito. Condorino. Ma cosa ha fatto vento improvviso? Io non mi sono accorto di niente, eppure sono salito in terrazzo a ritirarmi l'antenna, perché gli strumenti li ho portati giù e l'antenna era ancora su da due giorni, smontata naturalmente. Ma un tornado che di colpo ho visto l'antenna si piegava quasi in due, e io dico, mi fa salire. E questo è poco, domani mi scenderò al mare, domani. E dopo io vado al che non ce n'è vento. No, ma c'è un mare. Quattro onde. È sicuro che dove vado io male. E se c'è un bel di male lì si sta bene. Sì, non lo metto in dubbio. Non lo metto in dubbio. Che coperto, capito? Tutto costa. È positivo. No, ricordiamoci che al mare bisogna andare sempre del lì, non del tutto. Questo senza appoggio e te la spingo. Ah, beh, spingere ormai. Allora, bravo già, che aspetta. Te la appoggio e basta. Va bene così allora, se mi dici così, siamo veramente d'accordo. Va bene, io vi lascio questo... Ciao al bimbo del fuoco e date che chiami. Bene, Riccardo, ti dà. Che non l'ho beccato a Leoncino stasera, se saremmo andati a farti il giro. No, mi sembra bene. Certo, mi sono messo a letto, si è fatto. Vuol dire che sto facendo lavoro Gianni per il vicino, eh? Cioè va bene. Io me l'aspetto. Oh Gianni, vai Marco, vai. Cappa, figurati già se viene una tromba d'aria come quella di qualche anno fa. Che fine fa l'aringo? piglia il volo, ringo, palo e tutto. Ma io qui non mi ha fatto nessun. Oh, beh, se è ben fatto, appunto l'impianto non lo fa, ma tu hai anche tiranti. Il cacchio, io non ne voglio mettere i tiranti, perciò volevo fare il palo basso, anziché a 6 metri, volevo farlo a 4 metri. Cioè prendere il palo da 6 metri, però per irrigidirlo, abbassare l'ultima sezione, quella più sottile. Però il problema è che il palo regge e la ringo e potrebbe avere problemi. Oh, già, conta che c'è gente che ce l'ha da 20 anni piazzata, e non è mai successo niente. Te vi saluta, buon 144, buon tutto, Falchetto, come metti da parte mia. Ciao Falchetto, ci sentiamo, buonanotte, avanti. Ciao Falchetto, buonanotte, alle prossime. Ti dicevo già che c'è gente che comunque da ringo ce l'ha da 20 anni e non è mai successo niente. Lo so, a ringo io la vedo molto leggera come. Sì, leggera sì, ma boh, dicono che sia anche elastica. Flettere, a flettere flette, infatti anche il terrazzo sollevandola si piega un po', no? Però meglio che rigida, che leggera e rigida, meglio leggera che si fletta. Naturalmente gli faccio gli inforzi lungo le fascette, no? Dove sono, dove connetti un attivo con l'altro. Più l'isolatore al centro bello un astratto in modo che non vada l'umidità, perché sennò quando piove è stazionaria. Poi vediamo quanto dura, se no la cambio. Il figlio è la IMAX 2000, almeno quella non gli succede niente. Qui sono delle anche un po' costruite che durano e fanno. Però questo qua che è il blu, diventa un'antenna che spara tutte le parti del mondo. Sì, sì, basta sapere bene calcolare tutte le lunghezze, anche le bobine. Poi molti si stanno facendo adesso la canna da pesca, sia per la 27 sia per i 40, per esempio per i 20. Quelle canne da pesca da 10 metri, no? Dentro mettono un filo della giusta lunghezza, poi fanno una bobina alla base o non so cosa in modo da accordare. Dromiddo? No, è a chi? Non riflette. Ma... poi la mantova è bella, tipo la 5, quell'ultima, cioè pesano un bel, si costringono a mettere tiranti, cosa io non voglio fare, perché altrimenti sembra tutto enorme, no, l'installazione. Comunque già, rispetto alla ringo della Eco, no, che in totale era 550, la ringo della LEM ha cambiato il progetto. Da un po', anziché avere una sola spira, praticamente ha fatto due spire, l'ha fatta più lunga la spira, diciamo, lunghezza complessiva, e molti hanno avuto problemi a tararla perché non si capiva qual era la lunghezza esatta verso lo stilo. Io come solo stilo ti intendo dall'isolatore fino alla punta, e c'è gente che per farla funzionare l'ha dovuta accorciare di 40 cm. Capito già. Sì, praticamente da 5 metri in totale, il totale ti parlo di stilo più la base, no? Quella sopra l'isolatore, quella spezzone in tu. Da 5 metri l'hanno accorciata di 40 cm e lì risuona bene su 120 canali. No, io l'ho accorciata di 20 solo. Apparentemente funziona, però... quando si piazzerà vediamo se è il caso di accorciarla ancora. Capito, gli hanno fatto poco stilo e più lunghezza di bobina, cioè la spirale. Sì, sì, ho capito. Ma comunque io penso che spesso stiamo facendo un po' diverso, non possiamo più di prima. Infatti la gente si è lamentata perché quella della Eco era già bella che pronta, dovevi muovere solo l'accordo sulla spirale. Era fatta, adesso che devi azzuffare a trovare la lunghezza dello stilo, ma a qualcuno gli è andata bene già dalla prima, a botta di sedere. Bobo, mi sa già che vado a cenare, là, che mi sembra anche ora, ormai pare che stia preparando, capito? Cioè era pronto la prima, ma sta salvando la roba qua. Ok, grazie, saluto, ci vediamo alle prossime. Sì, io adesso metto totalmente a cavalcoli, ma cena, passiamo domani. E io, buonanotte già, alle prossime.